TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. L'incidente di caccia a Faedis, si indaga per omicidio colposo, il dibattito sulla sicurezza nell'attività venatoria. La vigilia della partita di calcio Italia-Israele, stadio Friuli blindato per un match ad alto rischio, prevista alta partecipazione alla manifestazione pro-Palestina. La Barcolana al suo massimo, ora è il momento giusto per ripensarla in chiave ancora più sostenibile, un'iniziativa a Trieste mentre si smantella il villaggio che ha ospitato le iniziative dell'edizione 57. Il tram di Opicina di nuovo fuori servizio, rotta la fune di risalita della funicolare, per ripartire servirà almeno una settimana. Ottobre rosa, il mese della prevenzione del tumore al seno, le iniziative della LILT Isontina. Il primo raccolto del riso prodotto in Friuli Venezia Giulia, una produzione per ora di nicchia, ma le prospettive sono incoraggianti. Il trasloco della biblioteca a Trieste, stanno per essere spostati 7 chilometri di scaffali di libri, un'operazione che servirà anche a svecchiare il patrimonio della Ortis. Basket Cividale è rinata a Forlì nonostante le assenze, a Trieste comincia il mondiale di dama. Le 12, quasi 32 minuti, ancora buona giornata da Giampaolo Mauro e Maria Spezia. In primo piano ancora l'incidente di caccia avvenuto ieri nei boschi di Faedis. Un settantenne è stato raggiunto da una fucilata partita dall'arma di un compagno ed è rimasto ucciso sul colpo. La procura di Udine ha aperto un procedimento penale per il reato di omicidio colposo. Il procuratore Massimo Lia ha reso noto che sono in corso le indagini per ricostruire l'accaduto e accertare le responsabilità. Nei prossimi giorni sarà svolta l'autopsia sul corpo della vittima. Intanto l'episodio riaccende i riflettori sull'attività venatoria, sulle regole da osservare per effettuarla entro i margini di sicurezza. Ne abbiamo parlato con il presidente di Federcaccia Udine. Walter Rotter Berton, come presidente di Federcaccia Udine, le chiedo intanto un commento sulla tragedia di ieri. Ma siamo totalmente dispiaciuti, anche perché il cacciatore che è deceduto era un nostro socio, e quindi siamo completamente vicini anche alla famiglia in questo doloroso momento. Il secondo caso di questo tipo in Friuli Venezia Giulia in 2 anni, come mai? Ma sono, sia il primo che il secondo sono state delle casualità, non certamente disattenzione, ma delle pure casualità. Che cosa si sente di dire? Si può migliorare l'attenzione? Si può sempre migliorare. Noi è anni che facciamo una battaglia proprio specialmente con quelli che fanno la licenza, la nuova licenza, sul maneggio delle armi. È assolutamente necessario porre più attenzione sul maneggio delle auto, delle armi. Talvolta forse l'essere esperti non aiuta? No, talvolta l'essere esperti è uno dei fattori che ti dà una sicurezza che con le armi non deve mai esserci. Le armi sono pericolose e bisogna mettere sempre attenzione, attenzione, attenzione quando si maneggiano. In questo caso sembra che la persona da cui è partito il colpo sia scivolata o abbia inciampato, poi sarà l'inchiesta eventualmente a stabilirlo. Quali precauzioni bisogna adottare nel momento in cui ci si sposta e non si punta l'arma verso un obiettivo? Ma sono sempre quelle che noi da anni battiamo tutti quanti, ai nostri corsisti, ai nostri cacciatori quando facciamo le conferenze, sono quelli di non tenere mai l'arma carica nel tragitto, negli spostamenti. L'arma deve essere sempre scarica o insicura. È assolutamente necessario che l'arma sia insicura. Possibilmente è meglio scarica e caricarla nel momento che uno arriva nella sua postazione. Remanzacco, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. A Udine la vigilia della partita di calcio Italia-Israele, match ad alto rischio per la concomitanza con la manifestazione pro-Palestina, a cui si prevede un'adesione massiccia. Blindata la zona dello stadio, ingenti le forze di polizia che presiederanno. Udine aspetta, un'attesa piena di ansia, con i luoghi a rischio che sono ormai blindati in vista della sfida Italia-Israele di domani sera. Intorno allo stadio Friuli sono state sistemate le strutture antiterrorismo. La zona di prefiltraggio è già attiva. Per entrare, previsti controlli con metal detector alle persone. Blindati anche gli hotel che ospitano le due nazionali, in particolare quella di Israele, con cancellate alte 2 metri intorno all'albergo in Viale dell'Edra. Ma preoccupa forse di più il corteo previsto previsto dalle 17.30 di domani, che si svilupperà tra Piazza della Repubblica e Piazza Primo Maggio. Commercianti ed esercenti sono stati invitati a tenere chiuse le proprie attività, con l'inevitabile riflesso economico che ciò comporta. Si temono infiltrazioni violente all'interno del corteo, che sarà composto da 10.000 persone, mai così tante in una manifestazione a Udine. Intanto in prefettura è in corso un tentativo di conciliazione per scongiurare lo sciopero indetto per domani dal SAPOL, il sindacato della polizia locale di Udine. L'Italia oggi si allenerà alle 16, mentre Israele è attesa allo stadio Friuli alle 19. Udine, Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Notizia appena arrivata che aggiorna quanto appena detto da Sebastiano Franco: lo sciopero della Polizia Municipale è stato revocato, rimane invece lo stato di agitazione. Sono 250 i giornalisti morti a Gaza, il conflitto più letale mai registrato per raccontare i fatti nel rispetto della libertà di stampa. È per questa ragione che l'USSI, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, testimonierà la propria solidarietà partecipando agli appelli per una pace definitiva e lancia un messaggio contro ogni forma di guerra. In occasione di Italia e Israele, a Udine domani sarà consegnato dai rappresentanti dell'USSI in tribuna stampa e a bordo campo ai fotografi un fiocchetto nero per ricordare la tragedia e il lavoro dei cronisti di penna per immagini e per auspicare che ci sia una fine definitiva del conflitto per un futuro senza armi. In una nota l'USSI sottolinea che i giornalisti sportivi raccontano attraverso lo sport pezzi di vita e non dimenticano i conflitti e raccontano con un linguaggio universale storie, persone e territori. 1.300 imbarcazioni all'arrivo della barcolana numero 57, il dato che più di ogni altro testimonia la positività di questa edizione, baciata dal meteo e condotta in porto, il caso di dire, da un'organizzazione impeccabile. Altro dato, quello fornito dal presidente della società velica di Barcole Grignano, Mitja Jaluz, sul numero di imbarcazioni che ieri erano in mare per seguire la regata, più di 400 oltre alle 1.700 che hanno partecipato alla regata. Il successo si misura poi con la partecipazione del pubblico alle tante iniziative collaterali e con le visite al villaggio della Barcolana, che in queste ore viene smantellato. E intanto si pensa alla Barcolana del futuro. In 5 giorni l'area del villaggio Barcolana sarà sgomberata del tutto. Annalisa Cosmina, responsabile marketing Barcolana SRL. Cerchiamo di farlo appunto rapidamente, proprio per restituire le aree pulite alla cittadinanza, per restituire i parcheggi che ovviamente sono fondamentali. Per quanto riguarda i parcheggi, successo dell'area Ex Ilios con 400 posti gratuiti e che il comune, dopo la chiusura dell'acquisizione da Coop 3.0, vorrebbe rimanesse destinata agli stalli blu. Si caricano i camion e anche le macchine più spaziose, come quella dei ragazzi del Sailing Team Audace, studenti che creano prototipi la regata. Giacomo Negro. Si vede un po' come malinconia a questi momenti? Sì, certo. Adesso arriverà l'inverno. È stata una barcolana molto fruttuosa per il team. Abbiamo avuto un sacco di persone che sono venute a vederci, un sacco di persone che hanno chiesto, che si sono mostrate interessate al progetto. Università e idee vuol dire anche maratona creativa, ovvero l'hackathon The Blue Way Hack all'Urban Center, promosso dal progetto iNest. L'evento lega l'innovazione alla Blue Economy. A confrontarsi start-up e spin-off universitarie dell'intero arco adriatico. Franco Scolari, direttore polo tecnologico Alto Adriatico. Hackathon vuol dire hacker marathon. Vuol dire un momento anche di follia o di creatività che in 48 ore stimola squadre di giovani a pensare a start-up, pensare all'innovazione, mettendo insieme passione e competenze, crediamo di avere un futuro migliore. Elena Grech, vice direttore della rappresentanza della Commissione europea a Roma. La condivisione di idee, la condivisione di innovazione anche, di sistemi che proporranno loro, sarà fondamentale sia per la loro crescita ma anche per eventuali soluzioni trovate a livello dell'Italia e poi a livello europeo. Si declineranno temi di ricerca del mare collegati all'attività della barcolana del futuro e altre azioni legate all'Adriatico, dalla limitazione della proliferazione delle specie aliene, gemelli digitali di previsione delle condizioni meteo, un villaggio barcolana ancora più sostenibile. Trieste, Andrea Marusic, TGR, Friuli Venezia Giulia. E a Trieste ieri la rottura del cavo di risalita della funicolare ha mandato KO il tram di Opicina proprio nel giorno di maggiore visibilità turistica, un guasto non banale per rimediare al quale servirà almeno una settimana. Out of order. Out of order. Oh. I'm where you sit. Una coppia di turisti tedeschi reagisce così alla notizia che il tram di Opicina è fuori servizio. Sulla nave da crociera Ida attraccata a Trieste avevano ricevuto indicazioni sulle esperienze da non perdere nel capoluogo e la Trenovia era una di queste. Eppure fino alla mattinata di ieri era filato tutto liscio. Le corse delle carrozze storiche avevano portato su decine e decine di persone che poi si erano sistemate sulla strada panoramica napoleonica per godersi il colpo d'occhio della barcolana. Ma poi il sistema vecchio di un secolo ha tradito ancora una volta le aspettative. Il cavo di traino è uscito dalla sua sede e si è usurato, ci ha detto il sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza. Trieste Trasporti ha dovuto fermare il servizio, il cavo va sostituito. Purtroppo la giornata era proprio quella sbagliata, ma l'incidente, spiega rassegnato il primo cittadino, non è che lo programmi. Per i turisti una piccola delusione, per non poter godere di una salita sul Carso che il New York Times, meno di 2 settimane fa, aveva indicato come uno dei 5 tracciati su rotaia da non perdere in Europa d'autunno. Girare un po' in internet chiedendo cosa c'è da vedere a Trieste e viene fuori anche il tram. Veramente noi eravamo già stati qualche anno fa e non c'era perché era in manutenzione e eravamo stati su con l'autobus. Adesso ci piaceva tornare col tram, ma non c'è. In queste ore è in corso un sopralluogo per verificare l'entità del danno e le riparazioni necessarie per capire quando si potrà riprendere servizio. Trieste, Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. Voltiamo pagina, ottobre, il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Per incoraggiare le donne a partecipare agli screening, la Lega Italiana Lotta ai Tumori LILT ha promosso in regione visite gratuite e iniziative culturali. Sentiamo in particolare su quali appuntamenti conterà la campagna della LILT Isontina attraverso la voce del suo presidente Michele Luise. Nel mese di ottobre sono le visite senologiche gratis che vengono praticamente effettuate su quasi tutto il territorio dell'ex provincia di Gorizia e poi momenti di incontro per informazione e formazione mediante conferenze, dibattiti, incontri e dei momenti anche ludici, ricreativi per il coinvolgimento del numero più grande possibile di persone da sensibilizzare sul problema prevenzione, in particolare con 2 appuntamenti importanti che è una camminata fra le vigne in rosa transfrontaliera che si farà nella giornata del 19 di questo mese di ottobre, il 26 una marcia con gli studenti di Savogna e il 20 di questo mese viene a Gorizia nell'ambito della campagna Go 2025 il professor Schitulli, che è il presidente nazionale della Lega Italiana Lotta ai Tumori, per presentare un libro, Una vita per sconfiggere il cancro. Il 30% di tutti i tumori femminili è rappresentato proprio dal tumore al seno. In Italia una donna su 8 riceve questa diagnosi e la mortalità però è in diminuzione grazie proprio alla prevenzione. La prevenzione ci consente di aggredire il tumore quando è ancora piccolo, al massimo il centimetro di dimensione. Quasi nel 90% dei casi noi siamo in grado, fin dal primo momento della diagnosi, di dire alla paziente che potrebbe rientrare nel 90% delle donne che va a guarigione a distanza di 5 anni. Friuli Venezia Giulia ha un'incidenza più alta rispetto alla media nazionale di diagnosi di tumore al seno. Questo purtroppo è un dato che certamente non ci fa piacere. Le cause però sappiamo benissimo che sono diverse, non ultimo direi proprio l'impegno da parte di tutti noi di andare quanto prima alla ricerca del tumore. Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Uno sguardo alla situazione del tempo quando sono le 12:44 minuti e 30 secondi. Abbiamo cielo sereno su pianura e costa, da sereno a variabile in montagna. Queste le temperature delle 11. A Trieste e a Udine 18 gradi e 5 decimi, a Pordenone e Gorizia 18. Nell'area montana, a Tolmezzo, 14 e 5 decimi, a Tarvisio 10, a Sappada 9 e mezzo, sul Piancavallo 13 gradi e mezzo, a Forni di Sopra 13, ancora in quota sullo Zoncolan 10 e 5 decimi, su Lussari 10 gradi, sulla costa a Grado 18 e mezzo, a Lignano 17 e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale: per le prossime ore cielo da poco nuvoloso, localmente variabile, specie montagna. Sulla costa soffierà borino che tra Lignano e Grado potrebbe girare in brezza. Il raccolto del primo riso cresciuto in Friuli Venezia Giulia segna un nuovo passo importante nella rivoluzione delle colture e si aprono scenari finora inediti, anche se per il momento si tratta di una produzione limitata e di nicchia. Sentiamo. La mietitrebbia è in azione a Silvella di San Vito di Fagagna, presso la Villa Micoli d'Orlandi, nel campo di riso più a nord Europa, nonché primo campo di riso del consorzio riso del Friuli Venezia Giulia. Un progetto nuovissimo nato la scorsa primavera che prevede la coltivazione non ad immersione, coltivazione tradizionale, ma in asciutto. E si è iniziato proprio stamane con i primi 2 ettari, per poi proseguire durante tutta la giornata negli altri 11 ettari distribuiti all'interno di un raggio di 50 chilometri nella provincia di Udine. Verranno raccolti oggi circa 60 quintali ettaro, perché poi questo materiale verrà lavorato a Verona per le fasi di essiccatura e di pilatura. Noi siamo qui proprio su questo campo con Valentino Targato, presidente del consorzio Riso FVG. Perché fare riso in Friuli Venezia Giulia? Per dare qualcosa di novità, di nuovo, un primo piatto al Friuli Venezia Giulia e per dare continuità ai cereali in Friuli. Era l'unica varietà, l'unico cereale che mancava sulla tavola del Friuli Venezia Giulia. Riso per fare risotto, per fare sushi? Per fare entrambi, per fare sia risotto, un piatto caldo, sia per fare un piatto freddo. Perché adesso va questo tipo di riso? Perché sì, perché la gente, la quotidianità, c'è un cambio di alimentazione. Siamo anche con Giovanna Dorlandi, studentessa di economia a Trieste, già impegnata però nell'azienda di famiglia. Voi giovani avete una spiccata sensibilità per l'ecologia. Qui, ricordiamolo, si usa poca acqua. Sì, esattamente. Qui abbiamo la grande fortuna di avere un intero sistema di irrigazione che può funzionare con il click di un bottone, ma comunque sono nuove avventure che stiamo iniziando e che trasmettono la passione di noi giovani. Fagagna, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Una notizia di cronaca: aveva stipulato al telefono una polizza per l'auto dopo aver consultato un noto sito che confronta i prodotti assicurativi sul mercato. Il documento esibito durante un controllo della polizia locale di Trieste era apparentemente regolare, uguale a quelli emessi dalla vera compagnia assicurativa. Sulle banche dati ufficiali però la copertura non c'era. Una complessa indagine sui bonifici ha poi consentito di appurare che l'ignaro automobilista, un triestino, aveva versato i soldi della polizza a un truffatore residente in Campania, che è stato denunciato. Si intitola Custodi di storie, Ortis in movimento, una storia che trasloca l'incontro in cui sarà raccontata la storia e il patrimonio della civica biblioteca triestina Ortis di via Madonna del Mare. In programma in sede l'incontro alle 17. L'iniziativa si vede all'avvio del trasloco dei volumi dalla sede storica di Palazzo Biserini per consentire restauro e riqualificazione degli spazi e al necessario spostamento di 7 chilometri di scaffali di libri per consentire i lavori. Alla responsabile Gabriella Norio abbiamo chiesto fino a quando sono previsti i lavori. Il trasloco durerà sicuramente fino a fine anno, perché appunto traslocare 7 chilometri di libri non è facilissimo, in più ci approfittiamo per poterli anche spolverare e quindi dare un'occhiata alle loro condizioni e a sistemarli nel migliore dei modi, quindi le operazioni sono piuttosto onerose e piuttosto lunghe, insomma, perché il patrimonio da salvaguardare è importante. In questi lavori che voi farete in parallelo a quelli della riqualificazione degli spazi, quindi lo spolvero, la sistemazione dei volumi, sarà inclusa anche la possibilità di vagliare il materiale, quindi eventualmente riuscire ad avere nuove acquisizioni, nuovi spazi, oppure riorganizzare tutto il patrimonio librario? Prima del trasloco abbiamo comunque fatto un'analisi delle raccolte possedute. Abbiamo scartato quello che potevano essere volumi doppi, volumi non più coerenti con la raccolta o comunque coerenti per contenuto riguardo allo sviluppo che i vari campi scientifici, storici e culturali hanno avuto in questi anni, sempre con un occhio di riguardo per quanto riguarda la conservazione di libri importanti, di libri antichi o di libri che riguardano la storia della città. E appunto risistemandoli in altri scaffali comunque cerchiamo di rivedere un po' quelle che sono le collocazioni e la disposizione dei libri per renderla più funzionale possibile. Nel corso dei lavori la biblioteca sarà comunque accessibile agli utenti? La biblioteca della sede di Via del Madonna del Mare è accessibile. I 7 chilometri di libri coinvolti in questo momento nel trasloco al momento non sono accessibili. Siamo alla pagina dello sport basket. La miglior Gesteco di quest'anno è tornata a calcare l'impronta sul campionato di A2. La vittoria sul campo di Forlì è arrivata nonostante importanti assenze nelle file dei Ducali e ora il cammino della squadra di Pillastrini può riprendere con maggiore convinzione. Per chi ha il vizio delle scommesse, puntare su o contro Cividale deve essere un incubo. La squadra di Pillastrini più perde pezzi più è solida e vince anche piuttosto agevolmente su un campo ostico come quello di Forlì, nonostante all'assenza di Freeman si aggiunga quella di Francesco Ferrari per un risentimento muscolare. La partenza è buona, anche se Redivo è ancora lontanissimo parente di quello di un anno fa. Comandano Cesane Marangon più 12 dopo 4 minuti e mezzo. Per gran parte del primo tempo i Ducali giocano bene, ma le fiammate di Harper e Allen permettono ai romagnoli, squadra esperta attendente all'anziano, di rientrare. È tuttavia un canestro dell'azzurrino da lontano a dare il vantaggio di metà match. Nella ripresa Forlì crolla, non segna più e non piega le gambe in difesa, beccandosi anche sonori fischi da parte del proprio pubblico. Berti segnerà fuori da sotto e viene a domandarsi perché non giochi in questo modo più spesso. La Gesteco sembra un freccia rossa in una gara contro un regionale, di nuovo più 16 con la tripla di Redivo del 38-54. Con Cividale la parola fine in genere non è mai detta, ma stavolta la gestione più sennata del solito. La bomba di Capitan Rote in avvio di quarto periodo chiude i giochi con larghissimo anticipo. Memore della rivalità sportiva dopo gli screzi degli scorsi playoff, i gialloblu non alzano il piede dall'acceleratore fino al 58-79 finale, con Berti migliore in campo, 15 punti e 10 rimbalzi. La classifica in attesa dei rientri degli infortunati dice 12° posto e il calendario è finalmente un po' in discesa, con in casa la matricola Ruvo, ancorata a 0 punti alla prossima, e Mestre tra 2 settimane. Trieste, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia. Da oggi a Trieste sono in calendario i campionati mondiali di Dama, che saranno in programma fino a sabato 18 ottobre nella sede di Confcommercio di via Mazzini. Sono 34 i giocatori da tutto il mondo che hanno superato le selezioni già disputate e ora si sfideranno in partita. Favoriti gli statunitensi, già originari dall'ex Unione Sovietica, in cui le strategie di attacco e difesa sulle 64 caselle bianche e nere erano popolari quanto il calcio in Italia. Fortissimi poi olandesi e inglesi, che si misureranno anche contro i 5 giocatori italiani in grado di superare le qualificazioni. Ad Olivio Capece della Federdama abbiamo chiesto quale sia la forza attrattiva del gioco tra i giovani. La Dama ha questo vantaggio rispetto ad esempio alle PlayStation, eccetera. Innanzitutto che permette di ragionare e pensare, e quindi non è una cosa pac-pac immediata, no? Uno deve pensare, ragionare, cioè serve strategia, serve tattica, e perciò la Dama è particolarmente interessante. Tra l'altro, se prendiamo ad esempio un famoso racconto di Edgar Allan Poe, I delitti della mia morgue, Poe aveva raccontato, cioè, io preferisco la Dama, per esempio agli scacchi, perché nella Dama il movimento è unico, cioè tutti i pezzi muovono nello stesso modo, mentre negli scacchi ognuno muove a modo suo, per cui è molto più difficile sbagliare, no? Perché negli scacchi uno fa un errore, cioè ho fatto una mossa, non l'ho vista. Invece nella Dama ci richiede un ragionamento nettamente superiore ed è questo che richiama i ragazzi. Purtroppo il gioco della Dama è poco considerato, non c'è possibilità ad esempio di un professionismo o cose del genere, per cui abbiamo molti giocatori, gli agonisti sono più di 5.000 persone che partecipano a gare e tornei sono tante. Se prendiamo tutti coloro che sanno giocare, secondo un'inchiesta d'Oxa di alcuni anni fa, arriviamo a qualche milione. Ma del resto chi è che non sa giocare a Dama? Tutti dicono, vai, giocare a Dama, cosa vuoi che sia? In realtà ci sono delle regole ben precise, per esempio il soffio. Tu dici, ah, ti soffio la pedina. No, non si può. Il soffio è stato abolito un secolo fa, addirittura intorno agli anni 30 del 1900. Pochi sanno, per esempio, che si può vincere per il blocco, cioè uno può avere tante pedine, tante danne, ma se non può più muovere ha perso la partita. È tutto per questa edizione che è stata redatta e condotta da Maria Spezia e Giampaolo Mauro, coordinamento tecnico di Viola Romanese e Paolo Cassano, ha collaborato in redazione Samantha Gong. Sono le 12:55, prossima edizione alle ore 15. A tutti grazie per l'ascolto e ancora buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.